A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Che ci sono le basi dei palazzi, le gallerie delle metropolitane, i cantieri delle strade. È laggiù che ci sono i pilastri di un'intera città ed è da lì, proprio dal sottosuolo, che inizia la conquista di una città da parte dell'andrangheta, da quella terra che i propri mezzi spostano, da quei cantieri che le proprie gru attraversano, da quegli appalti che i propri uomini conquistano. E lì entriamo in questa puntata di A ciascuno il suo, nelle fondamenta di una città, per dirla col titolo del libro di Giuseppe Gennari, il giudice per le indagini preliminari di Milano, che ha firmato quasi tutte le principali ordinanze contro le cosche calabresi al nord. Da lì partiamo, dalle fondamenta di una città che poggia però non solo sui suoi pilastri di cemento, ma anche sulla sua cultura sociale. E allora, se è vero che un territorio mafioso poggia su violenza, minacce e omertà, possiamo dire forse che anche Milano è una città mafiosa, vista la successione di indagini che raccontano di silenzi prolungati, delitti efferati e di infiltrazioni ripetute tanto nell'economia quanto nella politica? Io non so dire se Milano sia una città mafiosa. Quello che però mi è parso di vedere sotto gli occhi in anni di indagini è una città che, per molti aspetti, ha deciso di andare a braccetto con determinati fenomeni di criminalità organizzata, ha deciso di conviverci, ha deciso di trovare delle forme di incontro che hanno consentito a questa criminalità di proliferare e di diventare un vero e proprio elemento costitutivo di quello che è il tessuto sociale e imprenditoriale dell'area milanese. Lei anche già nell'introduzione in qualche modo ha parole abbastanza severe nei confronti della Lombardia, dove ci sono i finti anticorpi. Perché c'è una forma di antimafia che è un po' di facciata, o perché in qualche modo ancora anche su questo la Lombardia vuole fregiarsi di un aspetto che in realtà è differente dalla sostanza che le vostre indagini hanno portato alla luce? Ma secondo me il territorio lombardo, e questa è la mia sensazione, ha meno anticorpi dei territori del sud, per la semplice ragione che il fenomeno è meno conosciuto e meno se ne comprende la pericolosità. Nelle terre di origine tutti, ma proprio tutti, sono in grado di comprendere ad esempio quel linguaggio molto simbolico di cui sono portatori gli appartenenti alle organizzazioni mafiose. Tutti sono in grado di fare consapevolmente le loro scelte. Poi in certi territori è molto difficile fare delle scelte di rottura con il contesto in cui vivi, ma questa è un'altra questione. Ma la chiave di lettura la possiedono tutti. In Lombardia invece la sensazione è che la chiave di lettura la possiedano in pochi, e quindi tante volte, troppe volte, si sottovaluta la pericolosità di questo tipo di organizzazioni criminali. Si pensa, e penso ad alcune vicende di imprenditori lombardi, di poter in qualche modo conviverci, di poterli utilizzare per qualche servizio per poi liberarsene. Non è mai così. Da questo così. Punto di vista fu emblematica l'inchiesta, quella che coinvolse un famoso, un importante call center, Blue Call, laddove i titolari erano convinti che di potersi rivolgere a uomini provenienti da uno dei paesi simbolo anche un po' della presenza andranghetista in Calabria e poi di tenerli a bada. La storia invece è finita con il titolare dell'impresa che aveva un coltello puntato e con questi inviati delle cosche che si sono impossessati in pieno della sua ditta. Ecco, da questo punto di vista, circoscrivendo questo anche ad esempio al mondo dell'imprenditoria, si pensa di avere appunto dei finti anticorpi e di ottenere dei vantaggi illegali, perché poi non dimentichiamoci che una chiave di lettura, secondo me, molto importante è quello, è la chiave di lettura che salda la criminalità mafiosa con la criminalità comune. Noi siamo convinti che l'imprenditore evasore fiscale, l'imprenditore che viola le norme in materia di ambiente o di corruzione, sia un criminale geneticamente differente da chi fa criminalità mafiosa. Non è così, perché questi due tipi di criminalità vanno strettamente a braccetto. La criminalità mafiosa è in grado di offrire servizi sul piano della criminalità comune. Mafia c'è perché c'è il mercato per i suoi servizi e c'è, certo, l'opportunismo di tanti, lei scrive. Certo. che impressione ha? Che se questa è quanto emerge, quello che c'è sotto, cioè il numero delle aziende che in qualche modo possono quantomeno correre il pericolo di cadere nelle braccia della malavita è molto alto. Certo, se noi pensiamo al livello di presenza dell'andrangheta o di criminalità mafiosa in alcuni settori di impresa, il movimento di terra è il più tipico, ma poi anche altre attività di servizi, diciamo, a bassa specializzazione, dovremmo concludere che molto probabilmente il numero di imprenditori che entrano in contatto con queste realtà e che magari accettano anche di aprire un canale di scambio è evidentemente significativo. E questo appunto è, secondo me, l'aspetto più allarmante di questo fenomeno, perché poi per contro questi rapporti di contiguità sono i più difficili da colpire dal punto di vista giudiziario. Talvolta l'intervento giudiziario colpisce solo, se la vogliamo chiamare così, la mafia in senso tradizionale, mentre questa bolla che sta attorno e che consente alla mafia di proliferare sfugge molto spesso. In questo momento il rischio è la crisi. È evidente come in momento di crisi economica le mafie hanno il jolly della liquidità e questo in qualche modo le rende ancora più appetibili. Possiamo aspettarci che ci siano inchieste su prestiti di denaro che possono avere alle loro spalle in questo momento invece logiche mafiose? Vicende brutalmente definiamo appunto di usura, perché alla fine diventano questo, ne abbiamo già viste tante. È evidente che in un momento di crisi la possibilità di ricorrere a questo tipo di finanziamento cresce in misura esponenziale. E quindi da un canto c'è sicuramente la prospettiva di vedere un incremento di queste tipologie di reati. D'altronde sono anche reati che, per come sono strutturati, sono anch'essi molto difficili da perseguire, perché difficilmente la vittima riesce a uscire dal meccanismo in cui entra e a denunciare in maniera efficace. Mentre secondo me un segnale che va dato in maniera netta è che è illusorio pensare che queste organizzazioni criminali si presentino nell'azienda in crisi per partecipare del capitale con borse di denaro, perché quando questo è stato ventilato o promesso non è mai accaduto. Cioè, nelle indagini di questi anni noi abbiamo sempre e solo visto aziende spogliate dall'interno. Le organizzazioni mafiose non hanno mai investito un solo euro nelle aziende di cui poi si sono impossessati. Però si ha l'impressione che non passi ancora tanto questo messaggio, perché ancora c'è una forma di convenienza o assenza di alternativa. L'aspetto del finanziamento sicuramente, questo probabilmente sarebbe un discorso molto più ampio, ma è certo che quando tu sei un imprenditore e hai delle difficoltà reali nell'immediato e l'accesso al credito, come sappiamo, è così difficile, sempre più difficile, certo. È evidente che la disperazione ti spinge anche ad ascoltare delle sirene che poi tradiscono, perché la tipica promessa, ma non ti preoccupare, io ti do dei soldi, prendili a prestito, me li ridarai quando puoi, me li ridarai con i primi guadagni, poi chiaramente si dimostrano sempre delle promesse fallaci. In realtà la verità del rapporto poi si rivela sempre molto diversa. Riprendendo quello che diceva poco fa, c'è un aspetto che in queste inchieste di questi anni è venuto fortemente alla luce ed è stato tra gli aspetti che forse ha rappresentato di più una doccia fredda per Milano, la città che si riteneva ancora essere la capitale morale, e appunto, come ricordavamo prima, la mancanza, o per non dire mancanza, lo scarso esiguo numero di chi denuncia, a tal punto che la Procura di Milano ha chiesto e lei ha firmato, ha autorizzato anche un arresto per quella che doveva essere in origine una vittima, diciamo, dei boss, della violenza, delle cosche, e che però era a tal punto, diciamo, reticente rispetto all'evidenza che appunto è stata disposto anche un arresto. Credo fosse la prima volta in Italia. Lì in realtà c'era qualche cosa di più, perché si è ritenuto che non solo il soggetto negasse, ma che addirittura avvicinasse altre vittime convincendole della opportunità di tacere. E quella, diciamo, che è stata la molla che ha fatto scattare quel gradino in più per dire: a questo punto bisogna intervenire. Però certo, il dato dell'omertà è un dato oggettivo, basta vedere il numero spaventoso di attentati che avvengono a Milano e nell'Interland con cadenza settimanale e che non vengono denunciati, che finiscono in fascicoli contro ignoti, si parla di centinaia di attentati. Ecco, questo è un punto cruciale, perché poi alla fine si racconta l'andrangheta attraverso i grandi numeri delle operazioni, ma invece sappiamo bene come è la quotidianità degli attentati nei cantieri del Movimento Terra, dove vengono incendiati o distrutte le gru, o piuttosto delle intimidazioni, qualcosa che avviene soprattutto nei cantieri edili. Si parla di centinaia di attentati che finiscono in un nulla. Sì, mi pare che i dati dell'Operazione Infinito fossero dal 2008 al 2010 circa un 200 episodi tra attentati e episodi con armi o esplosivi. E temo che dopo l'Operazione Infinito la situazione non sia significativamente mutata. Quindi appunto parliamo di centinaia di episodi che finiscono in fascicoli contro ignoti, cioè sostanzialmente senza l'indicazione di un possibile sospetto, e ahimè molto spesso vengono anche trascurati a livello mediatico. E quindi forse non è passato il messaggio di una presenza così intensa di questi che sono invece dei segnali inequivocabili di una presenza mafiosa sul territorio. E anche forse non è passato il messaggio, o forse non si vuol vedere il codice, cioè mentre in Calabria un incendio in un cantiere tutti sanno interpretarlo come un gesto di intimidazione, qui forse a volte c'è anche il tema della fatica o della difficoltà, in mancanza di elementi anche delle forze dell'ordine, a mettere insieme tanti singoli episodi che visti singolarmente restano, non dico non significativi, ma comunque ridotti, ma che letti in una cartina di numericamente più grossa vogliono dire altro. Una lettura, come dire, unitaria di questi episodi è indispensabile, quindi chiaramente è importante la sensibilizzazione, la attitudine della polizia, dei carabinieri che operano sul territorio, di comprendere il significato di quel singolo episodio, segnalarlo in modo tale da consentire proprio quella lettura unitaria senza la quale si perde evidentemente la dimensione del fenomeno, il significato del fenomeno. Dal punto di vista della vittima, temo che sia un po' il discorso che facevamo prima, cioè un calcolo di convenienza. Io faccio l'imprenditore, se denuncio mi trovo il giorno dopo magari con gli attentati raddoppiati, perché poi dobbiamo anche dire non è che l'intervento dello Stato è in grado di eliminare immediatamente il pericolo, e mi trovo in difficoltà con la mia impresa, mentre se non denuncio, tutto sommato, ed è questa la grande forza di queste organizzazioni mafiose, io trovo un punto d'incontro. E quindi se soddisfo la richiesta, che magari è quella di dargli il contratto o di fare l'appalto con la tal ditta, però poi vado avanti. O di far assumere delle persone. O di far assumere la tal persona, io però poi vado avanti. Dalle grandi multinazionali ai paninari fino al call center, l'elenco di quanti al nord hanno aperto le porte dell'andrangheta tra convenienze e silenzi è purtroppo molto lungo, come gli interrogativi che ora si allungano sulla città che un tempo si credeva capitale morale. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Alcuni sono già usciti, altri lo faranno a breve. I capi storici dei clan di 'ndrangheta arrestati nelle indagini del passato stanno per tornare presto nei loro territori. Un evento che può segnare un cambiamento negli equilibri di cosche come quelle calabresi, che non recidono mai i rapporti con chi è stato parte della loro stessa carne. Succede al sud come al nord, dove gli affiliati non spezzano il legame con la casa madre, perché altrimenti, per dirla con le intercettazioni di un boss, saremmo tutti zattere in mezzo al mare. Un legame che invece hanno talmente tenuto stretto da spalancare in pieno le proprie porte all'andrangheta, che dalle fondamenta della città, titolo del saggio di Giuseppe Gennari, si è insinuata fin dentro settori del suo cuore economico e politico, come le storie delle ultime indagini, quasi tutte firmate da questo giudice per le indagini preliminari di Milano, raccontano. E da qui ripartiamo in A ciascuno il suo. Il filo conduttore è appunto quello dell'apertura di un piano di confronto con l'organizzazione criminale. Se io in qualche modo so che tu su questo territorio sei presente, sei forte, ho la possibilità di oppormi, oppure cerco di convivere con la tua presenza. E la grande intelligenza, secondo me, di queste organizzazioni mafiose è stata appunto quella di dire: io prendo fino a un po', faccio in modo da lasciarti il tuo guadagno imprenditoriale, di rendere anche efficiente il mio servizio, in modo tale che tu riesci a convivere con me, cioè non hai la spinta a espellermi dal tuo territorio, a denunciarmi, come accade, non so, come il classico e tradizionale pizzo che ti porta via soldi come se fosse una tassa di una sorta di antistato. Da Reggio Calabria, in una delle ultime inchieste, è stato posto l'attenzione su un tema che sono le società partecipate. Reggio Calabria, vabbè, è l'unico capoluogo d'Italia che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. In una delle inchieste che riguardava una società di servizi, se non ricordo male la Leonia, che si occupa dei rifiuti a Reggio Calabria, il giudice metteva in allarme sul rischio che nelle società partecipate ci fossero infiltrazioni mafiose. È in qualche modo un rischio che secondo lei potrebbe esistere anche per la Lombardia? Sicuramente la situazione al sud è molto più compromessa rispetto alla situazione lombarda, quindi ad oggi tentativi di questo genere, almeno per quelle che sono le indagini e le attività note, non sono stati registrati. Mi auguro che non siano settori appetibili e facilmente permeabili alla presenza di organizzazioni di questo genere. Apparentemente le barriere istituzionali, i filtri, i controlli, il livello di interposizione tra questo tipo di fenomeni e la sfera pubblica sembra abbastanza consolidata. Dottor Gennari, a proposito di omertà, intanto le chiedo se per quello che le risulta, se ci può ancora confermare quello che era il dato che fin qui è stato più volte appunto raccontato, cioè di un numero estremamente esiguo, se non dire scarso, di chi denuncia. Mi pare che la stessa procura ha confermato recentemente. Non mi pare di vedere file di candidati testimoni a Palazzo di Giustizia. Non c'è stata, diciamo, anche negli ultimi tempi nessuna inversione di tendenza su questo fronte. Però invece sul fronte omertà, che è un tema centrale, può avere tante facce, tante sfaccettature, anche quella un po' dei codici, soprattutto quando a parlare è una donna. Erano due soggetti che si riteneva che avessero favorito in qualche modo i responsabili di altri reati molto gravi, e uno di questi due soggetti era appunto una donna che avrebbe dovuto rendere delle spiegazioni, e di fronte alle domande che venivano fatte, appunto, la sensazione era che non potesse in qualche modo fornire delle risposte diverse da quelle che erano state fornite dal marito, che evidentemente non poteva smentire. Effettivamente talvolta la omertà, e questo forse è più frequente al sud, è un fatto culturale, cioè proprio è una scelta che risponde appunto a un codice di comportamento, come giustamente diceva lei, nei rapporti intrafamiliari. Io rispetto l'uomo e quindi faccio quello che l'uomo mi dice di fare. Altre volte al nord, molto più spesso, è una scelta di opportunità. Però secondo me la cosa molto importante da dire è che il risultato è lo stesso, cioè non si può affermare nessuna superiorità morale del nord perché non avrebbe questa propensione intrinseca alla omertà. Che tu stia zitto perché rispetti un codice o che tu stia zitto perché ti conviene, il risultato è sempre che stai zitto. Il risultato è sempre che stai zitto, ma anche che a volte, esattamente qui come a volte è stato già visto e letto in altri contesti giudiziari, il mantra che si ripete, spesso soprattutto da parte di persone, non so, i famosi colletti bianchi, il mantra che si ripete è che ma io non sapevo chi avevo di fronte, non potevo immaginare chi avevo di fronte. Lo ha ripetuto anche da ultimo anche l'ex assessore Zambetti, appena uscito dal carcere. Ebbene, lei un po' nel racconto di quello che scrive, ma anche, ricordo bene, in una sua ordinanza, lo diceva proprio chiaro e tondo: ormai non sono più tempi in cui si può dire io non sapevo chi avevo di fronte. Dal punto di vista giudiziario chiaramente rimane fermo che o io ho la prova che tu sapevi, o se non ho la prova devo ritenerti inconsapevole. Dopodiché si apre per i politici o per soggetti istituzionali tutto un altro tipo di discorso, cioè il discorso dell'opportunità, della verosimiglianza, della responsabilità politica per le proprie scelte. Sembra sempre un po' una scorciatoia quella di dire io non sapevo chi avevo di fronte. Lì secondo me è un discorso che appunto bisognerebbe allargare e bisognerebbe affrontare in maniera molto più concreta. Ogni caso è diverso da certo. Quando tu fai un certo tipo di attività, ti rivolgi al pubblico o hai bisogno di consenso, hai bisogno di rapporti di un certo tipo, che quanto deve essere alta la tua soglia di attenzione e al di sotto di quale soglia di attenzione dovresti essere censurato per le tue scelte, per le tue condotte. Sono già usciti o stanno per uscire dal carcere anche molti dei capi storici di alcuni clan. Secondo lei che cosa può succedere? Mi sembra difficile che chi per grande parte della sua vita ha rappresentato famiglie importanti in un fenomeno criminale come quello dell'Ndrangheta, che ha determinate caratteristiche di origine familiare, di tradizione e via dicendo, mi sembra difficile che una volta uscito riesca a recidere totalmente i legami con il mondo a cui apparteneva. Ovviamente questa è, come dire, un dato che andrà poi verificato, certo, effettivamente, però sicuramente il timore che giustamente sottolineava lei è la dimostrazione di come non si può realisticamente pensare di affrontare questo problema solo dal punto di vista giudiziario. Un magistrato che fino adesso si era occupato di tutt'altro, no? Che poi a un certo punto si ritrova sulla sua scrivania un crescendo di inchieste, di una presenza sempre più radicata e strutturata della malavita organizzata in una città che fino a quel momento faceva finta di esserne esente. A tal punto che non è soltanto criminalità economica, ma si arriva anche ad un caso di sequestro, omicidio, si era parlato anche di Lupara Bianca. La mia città mi sta deludendo, l'ha mai pensato? Umanamente sono vicende che colpiscono profondamente, perché poi appunto sono storie individuali drammatiche che si intersecano appunto con la vita di una città nella quale certi fatti sembrava che fossero impossibili e impensabili. L'ha mai pensato? Milano mi sta deludendo, non credevo che questa fosse Milano. Non sono mai stato convinto che fosse un'isola felice. Sono tra l'altro storie che secondo me risvegliano in qualche modo le coscienze, però è drammatico che debba essere una storia di questo genere a risvegliare le coscienze. Non possiamo accettare l'idea che una donna come la Garofalo debba sacrificarsi per risvegliare le coscienze. Questo secondo me è il segno di una sconfitta. C'è un altro aspetto che emerge, che è quella un po' della capillarità della presenza, laddove si pensi che ad esempio altra inchiesta ha raccontato la spartizione del controllo dei clan anche sui venditori di panini ambulanti. Quello secondo me è, come dire, nelle sue ridotte dimensioni economiche, no? Però è molto significativo perché nella vita quotidiana, cioè perché tu hai proprio la sensazione diretta che non è qualche cosa che non ti riguarda, ma è una realtà che tu vivi nelle tue serate, nel tuo svago. Devi avere la consapevolezza che forse in quei 4 euro che tu paghi per il panino c'è anche una fetta che tu dai alle organizzazioni criminali. Quella è stata una storia, secondo me, una vicenda molto forte da questo punto di vista, e ha dato un segnale efficace alla città. L'ultima domanda che le faccio, dottor Gennari, è questa: abbiamo visto la enorme quantità di lavoro che in qualche modo negli ultimi anni soprattutto c'è stata, e che lei appunto sintetizza molto efficacemente nel suo saggio Andando nelle fondamenta della città. Ci sono state situazioni in cui si è fatta fatica anche a star dietro alla gran quantità di lavoro che c'era da fare, di verificare con un numero preciso, esiguo, di carabinieri, polizia. Sicuramente il lavoro che si riesce a fare è sempre di meno di quello che tu vorresti fare con le risorse che hai, e io non posso dire di conoscere vicende in cui non si sia fatto, mentre posso dirle che tutte le vicende, tutte quelle indagini sono state fatte anche con i sacrifici eccezionali di persone che ci hanno lavorato. Avere la possibilità di avere più risorse di uomini, più risorse di mezzi, più risorse di tipo strumentale, chiaramente consentirebbe di allargare magari lo spettro di indagine e le attività. E a voi è mai capitato di pensare di aver incontrato, incrociato in qualche modo l'Ndrangheta? Se vi va, scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook di Storiacce oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra, l'hashtag a ciascuno il suo. Ciao a tutti, al prossimo weekend.